Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Triestino di 36 anni ritrovato carbonizzato nella sua abitazione in via del Ponzanino, soffocato e poi bruciato dalle fiamme partite da un rudimentale impianto di riscaldamento. Lavoro nero, 15 lavoratori irregolari scoperti dalla Guardia di Finanza nel Pordenonese, 8 sono stranieri. Concessioni balneari, dopo la questione proroga, la difficile redazione dei bandi, gli orientamenti della Regione. A Pordenone la festa delle polizie del Triveneto, i giornalisti celebrano il patrono, un incontro con il Vescovo di Trieste sulle sfide della professione. Disagio mentale, l'assistenza di Televita a Trieste, i dati dell'attività. La Fondazione Aquileia, tra i numeri del 2023, il programma del nuovo anno, un incontro di vertici con la stampa. Sono le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Incendio con un morto carbonizzato questa mattina a Trieste in una casa popolare di via del Ponzanino. La vittima è un 36enne che per scaldarsi si era costruito un rudimentale impianto collegato al forno. Aveva 36 anni, Edoardo Iampenco è morto nella notte in un incendio nella sua abitazione al quarto piano in via del Ponzanino 5 nel popolare rione di San Giacomo a Trieste. Il suo appartamento è andato a fuoco poco prima delle 7 del mattino, quando l'uomo, che in passato aveva lavorato sia nell'ambito portuale che come attrezzista nella produzione di film e documentari, presumibilmente ancora dormiva. Non è escluso però che le cause della morte, in corso di accertamenti da parte della medica legale intervenuta poco dopo le 9, siano dovute all'esalazione precedente di monossido di carbonio. L'uomo, che viveva in condizioni precarie, si riscaldava infatti con un rudimentale sistema con un tubo che usciva da un vecchio forno lasciato acceso, dormendo su un soppalco in cucina pur disponendo di una camera da letto. I vigili del fuoco, che sono intervenuti con l'autoscala, e i sanitari arrivati immediatamente dopo l'allarme lanciato da una vicina non hanno potuto che constatarne il decesso. A causa dell'elevata temperatura e dei materiali obsoleti, il pavimento e l'intonaco hanno ceduto, l'acqua usata per spegnere le fiamme si è infiltrata al piano di sotto, dove vive una famiglia di origine serba con due bambini. Quest'ultimo appartamento è stato dichiarato inagibile, saranno ospitati per il tempo necessario per rimetterlo a posto in un albergo in periferia, così come un altro nucleo familiare che vive nell'appartamento adiacente a quello interessato dal rogo. I vigili del fuoco stanno ultimando i controlli nel resto dello stabile per permettere agli altri sfollati di rientrare in casa. Proprio in via del Ponzanino, al Civico 3, nel 2021 si era sviluppato un terribile incendio in cui era morto un altro giovane triestino, Luca Lardieri. In quell'occasione la squadra mobile della questura giuliana era riuscita a chiarire i contorni dei fatti, fermando una persona e arrestandola per omicidio. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto da inizio anno 15 lavoratori irregolari, di cui 8 stranieri, sanzionando 10 diversi datori di lavoro e sospendendo 4 attività. Gli interventi hanno riguardato aziende di ristorazione, servizi all'agricoltura, commercio ed edilizia. Il primo accertamento è venuto a Capodanno con la scoperta di un lavoratore in nero addetto al servizio ai tavoli in un ristorante che aveva organizzato un cenone. Altri 2 lavoratori sono stati trovati nei controlli condotti in occasione della recente fiera Extra, mentre 6 sono stati individuati nel corso delle verifiche su mezzi commerciali in transito. Un lavoratore irregolare è stato scoperto in un cantiere edile di San Vito al Tagliamento e altri 5 braccianti, tutti stranieri, sono stati trovati nelle campagne del San Vitese. La Regione sta cercando di affrontare il nodo delle concessioni balneari, si stanno approntando i bandi con linee guida che possano agevolare il compito dei comuni. La novità è una zona gratuita che dovrà essere prevista su tutte le principali spiagge. La questione delle concessioni balneari in Regione è arrivata a un punto di svolta e dovrebbe essere risolta entro la fine dell'anno. I comuni, 9 quelli costieri, avranno l'appoggio della Regione e di un consulente esterno per stilare i bandi, che avranno strutture comuni, come spiega l'assessore regionale al demanio Sebastiano Callari. Abbiamo istituito, così come avevamo promesso, con oggi un tavolo tecnico che lavorerà anche in maniera molto efficace e rapida per stabilire quali saranno le procedure per fare i bandi di gara. Contiamo già nel primo semestre di quest'anno di esaurire i lavori del tavolo tecnico e di cominciare da subito a fare i bandi di gara. Nei nuovi bandi di gara è previsto che venga inserita una novità? Sì, noi vogliamo che i nostri concessionari prevedono anche delle aree di spiaggia libera ad uso di coloro che non possono permettersi di pagare un ombrellone. Questo è un modo per rendere inclusiva anche la spiaggia e permettere a coloro che lo visitano, soprattutto ai turisti, di vedere come biglietto da visita che in Friuli Venezia Giulia sia inclusivi anche nell'utilizzo del bene pubblico finalizzato al turismo. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Lutto nell'imprenditoria regionale per la scomparsa del monfalconese Dino Candusso, 95 anni, fondatore con il padre Luigi e i fratelli Renzo e Bruno dell'omonima società per la produzione di serramenti in alluminio, una delle più rappresentative del settore. L'azienda dei Candusso è stata sinonimo di alta qualità fin dagli anni 60, con brevetti innovativi come Bilic Bora e successivamente Strato, che avrebbe aperto all'azienda importanti sbocchi verso l'estero, in particolare in Giappone. Dino Candusso, ricorda in una nota Confindustria Alto Adriatico, è stato anche vicepresidente dell'associazione e per 18 anni ha guidato il Congafi Industria. Negli anni 2000 è stato consigliere comunale a Monfalcone. A Pordenone questa mattina le celebrazioni della polizia locale in occasione del patrono San Sebastiano. In centro hanno sfilato le rappresentanze di tutto il Triveneto. Pordenone ospita la 25esima celebrazione del Triveneto della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Dopo i festeggiamenti regionali di sabato scorso a Sacile, stamani la manifestazione è iniziata alle 9 con l'ammassamento in piazzetta Calderari, la cerimonia dell'alzabandiera e il trasferimento in corteo al Duomo con cattedrale di San Marco. La messa è stata celebrata da Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia Pordenone. Infine il trasferimento in corteo presso l'auditorium della regione in via Roma. Il comandante della Polizia Locale di Pordenone Cordenons, Maurizio Zorzetto. A Pordenone abbiamo subito un grandissimo cambiamento nell'ultimo annetto e mezzo, ma proprio per un indirizzo che è arrivato dall'amministrazione estremamente forte di una Polizia Locale che è mutuata dal corpo delle guardie comunali per diventare una forza di polizia vera e propria sul territorio. Stiamo lavorando molto su tanti fronti, sicuramente la Polizia Stradale Amministrativa, che è la nostra vocazione principale. Abbiamo dato fortissimo impulso alla Polizia Giudiziaria, la sicurezza urbana, i numeri sul quantitativo di sequestri di droga, di arresti, di denunce a piede libero è estremamente importante quest'anno. Siamo passati da poche decine fino agli anni scorsi a oltre 100 quest'anno. Abbiamo sequestrato più di 1 chilo di droga in piccole dosi, quindi comunque questo è un messaggio estremamente importante e significativo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche i giornalisti festeggiano il patrono San Francesco di Sales. Questa mattina a Trieste una messa con il vescovo e un incontro per riflettere sulle future sfide della professione. L'invito a chi esercita il mestiere di giornalista è quello a non essere megafoni di pregiudizi e allucinazioni, ma ad aiutare chi ascolta o legge a tenere accesa l'intelligenza e il senso critico, andando a cercare le fonti e non limitandosi a riferire solo le parole dette da altri. A pronunciarlo è Monsignor Enrico Trevisi, in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono degli operatori dell'informazione, la prima da quando è diventato vescovo di Trieste. Una riflessione, quella di Trevisi, che arriva nel tradizionale incontro a margine della Santa Messa in ricordo dei giornalisti morti compiendo il loro lavoro, tra i quali anche i tre colleghi della RAI, Marco Lucchetta, Alessandro Otta e Dario D'Angelo, morti nel 1994 a Mostar, in Bosnia-Erzegovina, su cui il vescovo si è soffermato in vista del 30° anniversario della loro uccisione. Ma oggi la grande sfida dell'informazione, ha ricordato Trevisi a partire dal messaggio di Papa Francesco per la 58esima giornata delle comunicazioni sociali, è quello dell'intelligenza artificiale e delle sue implicazioni. Nell'ambito della comunicazione, ha detto il vescovo di Trieste, è fondamentale che l'intelligenza artificiale non prenda traiettorie che vadano a collidere con la pace, la partecipazione e la democrazia. Con gli algoritmi, ha aggiunto Trevisi, rischiamo di discriminare tutte le fragilità, ma la fragilità incombe su ciascuno di noi. Dobbiamo fare di tutto per evitare il rischio di perdere la capacità di guardare alla fragilità di chi ci sta accanto, come quelle che si riscontrano anche a Trieste, a partire dalla tragica situazione dei migranti accampati al Silos. Occorre raccontare i processi che sono in gioco, questo è l'invito finale di Trevisi, per tenere viva l'attenzione della città sui problemi che ci sono. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Altri appuntamenti per il patrono dei giornalisti a Udine, l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato presiderà una santa messa alle 19 nella chiesa della Purità in piazza del Duomo, e a Pordenone il vescovo Giuseppe Pellegrini presiderà una celebrazione che si svolgerà nella cappella del centro diocesano alle 18. Televita, uno dei partner dell'azienda sanitaria nell'assistenza delle persone fragili, ha presentato a Trieste gli ultimi dati sul disagio mentale. Il servizio. Non sono semplici telefonate, ma richieste d'aiuto. 35.000 soltanto l'anno scorso e di queste molte riguardano il disagio psicologico. Il centro di ascolto Televita da 30 anni fornisce un servizio di prevenzione e soccorso, affrontando situazioni emergenziali ma anche problemi legati al ciclo di vita, dalla genitorialità al decadimento cognitivo. Anna Farà, psicoterapeuta. Per quanto riguarda telefono speciale, che è la linea nata 30 anni fa per la prevenzione del suicidio, la prima cosa cerchiamo di capire se si tratta di un'emergenza o di un bisogno generico a cui rispondere in altra maniera, fornendo un primo soccorso psicologico, per esempio se la persona arriva con uno stato d'ansia e non deve essere allertato quello che è il sistema di emergenza urgenza 112. Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato. Contatto è un servizio digitale rivolto ai giovani. Durante e dopo il periodo della pandemia, gli accessi sono aumentati esponenzialmente, portando alla luce tante forme di disagio psicologico tra i minori ed i giovani adulti. Isolamento, difficoltà a costruire relazioni, ansia. L'onda della pandemia ha lasciato degli strascichi sicuramente di ansia, di isolamento, di angosce generalizzate, di incapacità di ricostruire delle relazioni, e questo appunto, come dicevo, unisce sia il giovane che l'adulto. Contatti da tutta la regione ma anche dall'intero territorio nazionale per rispondere con psicologi e psicoterapeuti a tante persone, anche per l'Arma dei Carabinieri, che offre il servizio a tutti i militari e alle loro famiglie. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Educare e crescere insieme, scuola e famiglia per il futuro dell'infanzia, è il servizio di consulenza gratuito a disposizione di famiglie, genitori ed educatori a supporto dei giovanissimi, che è stato lanciato dalla Federazione Italiana Scuole Materne FISM Udine, associazione che raggruppa 70 scuole dell'infanzia non statali e paritarie. L'iniziativa fornirà consulenze da professionisti come psicologi dell'età evolutiva e pedagogisti in incontri in presenza oppure online, che saranno tarate sulle esigenze emerse, senza finalità terapeutiche o diagnostiche, ma con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra famiglie e scuola. Il servizio ai nastri di partenza e sarà attivo fino a giugno in modalità sperimentale. La Fondazione Progetto Autismo FVG Onlus ha presentato questa mattina i risultati di una ricerca scientifica sul metodo comportamentale integrato in ambiente multisensoriale, uno studio che apre nuove prospettive anche per gli aspetti riabilitativi. Si fa anche ricerca alla Fondazione Progetto Autismo FVG, l'organizzazione che da 8 anni a Feletto Umberto dà una risposta a 98 famiglie attraverso un percorso di assistenza diurna e terapia di bambini e giovani autistici. La sala multisensoriale è stata al centro di Flow Out, il lavoro lungo 3 anni di 2 ricercatrici, Anna Antoniole e Giulia D'Argenio, delle Università di Trieste e Udine. Per i più piccoli, luci, colori, suoni, che creano un ambiente isolato dal resto del mondo. Per adolescenti e giovani adulti, l'utilizzo di TMOC, un sistema di realtà virtuale pensato per persone con disturbi di tipo motorio e cognitivo. I risultati indicano in entrambi i progetti un miglioramento nei comportamenti dei partecipanti. Le diagnosi di autismo sono in forte crescita negli ultimi decenni, una condizione che impatta pesantemente nella vita delle famiglie. Spesso la risposta da parte pubblica non è sufficiente per coprire tutte le necessità di cui hanno bisogno gli autistici, soprattutto quando raggiungono la maggiore età. Non sorprende dunque che una realtà unica in Italia come Progetto Autismo FVG abbia dovuto chiudere la sua lista d'attesa di 40 persone che potranno trovare spazio quando si realizzeranno nuove unità nel terreno adiacente grazie a una raccolta fondi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:44, passiamo al meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 9,5 gradi, a Udine 6,5 gradi, a Gorizia e Pordenone 6 gradi, in area montana a Tarvisio 5,5 gradi, Forni di Sopra 4,5 gradi, a Tolmezzo 4, a Piancavallo 2 gradi, a Sappada -3,5 gradi, in quota sul Monte Lussari 3,5 gradi, sul Monte Zoncolan 1,5 gradi, sulla costa 7,5 gradi, a Lignano 4,5 gradi. Previsioni a cura dell'ARPA per la giornata di oggi: avremo cielo in genere poco nuvoloso o variabile su pianura e costa. In giornata sarà possibile maggiore nuvolosità dovuta a nubi basse, specie a est, foschia in serata, zero termico a 2500-3000 metri con inversione termica. La Fondazione Aquilei ha illustrato questa mattina i dati sulle presenze del 2023 e delineato la programmazione dell'anno in corso. Abbiamo seguito la conferenza stampa. Più 15% gli accessi ai luoghi della cultura, più 10% gli arrivi nelle strutture ricettive, oltre 220 proposti, 14.000 accessi all'InfoPoint e 10.302 FVG card vendute. Sono i dati salienti del 2023 per Aquileia, che confermano il trend positivo del 2022 per un sito che ha appena celebrato i 25 anni dal riconoscimento UNESCO. Dati presentati questa mattina al Museo Archeologico Nazionale in una conferenza congiunta che ha visto la partecipazione di Fondazione, Regione, Comune, Direzione Regionale dei Musei e Basilica di Aquileia. Dati compendiati da Roberto Corciulo, presidente della Fondazione, che traccia anche il lavoro per il futuro. Chiudiamo un 23 molto buono, più 15% di presenze, di visitatori negli luoghi della cultura, più 10% nelle strutture ricettive. Questo è frutto di un grande lavoro di squadra. Abbiamo tre macro progetti: Palazzo Brunner, il Fondo Cal e il Foro, che è un po' l'icona di Aquileia. Il Comune partirà con dei lavori legati al bike park e ad altri progetti importanti sulle ciclabili, sempre nell'ottica del servizio al turista che viene ad Aquileia. Il museo termina la parte delle sale espositive e parte con i lavori al Paleo Cristiano e la Basilica partirà con i lavori di consolidamento del campanile e dei lavori interni alla Basilica stessa. Aquileia, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni libri di cui si parla oggi a Trieste, a Palazzo Gopcevic alle 17, viene presentata la riedizione di Il Kitsch, antologia del cattivo gusto di Gillo Dorfles, pubblicata da Bompiani, uno dei volumi chiave del grande intellettuale e critico d'arte. L'incontro, introdotto da Giorgetta Dorfles, vedrà gli interventi di Marianna Cerboni, Gianni Contessi e Roberto Curci. Sempre a Trieste, alla libreria Ubica, alle 18, la curatrice Laila Vadi e alcune delle autrici presentano la raccolta di racconti Trieste, uno sguardo intimverso per Cosmo Iannone Editore, in cui scrittrici triestine originarie di tutto il mondo raccontano la città multiculturale. E ancora a Trieste, alla libreria Lovatta, alle 18, Fabio Tufano presenta il suo Antropologia del Labora, il primo saggio che esplora Labora appunto dal punto di vista antropologico. Non è solo un vento, è spirito del luogo di Trieste. Il libro descrive le diverse relazioni tra Labora e la città, relazioni che vengono definite come meteosocialità. Racconta i decenni che hanno portato alla depenalizzazione della contraccezione, alle conquiste del divorzio e dell'aborto. Il documentario è titolato Il coraggio della libertà, 70 anni di generazioni consapevoli. L'opera, prodotta dall'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, AIED, contiene la testimonianza di molti protagonisti di quelle vicende, dalla militante radicale Emma Bonino al presidente onorario Arcigay, Franco Grillini. Sullo schermo i movimenti che hanno rivoluzionato l'approccio alle libertà personali e comportamenti sociali. Registi pordenonesi Alessandro Pasian e Francesco Guazzoni. Appuntamento a Pordenone a Cinema Zero alle 20.45. Ricerca scientifica e navigazione, due modi di scoprire il mondo, si ritrovano entrambi in una mostra allestita alle scuderie del Castello di Miramare. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione. Oltre i confini della conoscenza, oggi come più di 150 anni fa, sono i viaggi paralleli del Novara, il veliero della Marina Austro-Ungarica, e della rompighiaccio Laura Bassi dell'OGS di Trieste, due imbarcazioni che dialogano di scienza e nella scienza attraverso il tempo e lo spazio, dice il professor Stefano Fantoni, già direttore della SISSA e presidente della Fondazione Internazionale Trieste. Al di là di quello che queste navi e queste spedizioni hanno scoperto, che sono hanno fornito una quantità di dati mostruosa, è importante in qualche modo il significato della scienza. La scienza è come diceva Leopardi: io mi siedo e al di là della siepe c'è qualcosa. Non c'è una fine a quello che la scienza ci saprà dire. La conoscenza è infinita e deve essere così. È una sorgente di curiosità e io spero, mi auguro, che questo venga compreso sempre di più, quanto è importante nel mondo far sì che la scienza possa progredire, che la conoscenza possa progredire, perché questo significa anche e soprattutto la salvezza del mondo. Una vocazione antica per la città giuliana, quella della ricerca scientifica via mare. Tanto la Novara nel 1854 quanto la Laura Bassi due anni fa sono partite proprio dal porto triestino. Trieste è una specie di centro, di baricentro scientifico certamente del nostro paese, ma anche al di fuori di questo. Io credo che in queste cose vale molto anche la presenza di certi personaggi, di certe persone, di certi eroi, chiamiamoli così. E qui ce n'abbiamo avuto uno, che si chiamava Budinich, e che ha dato vita a tutta questa ricchezza, sfruttando anche delle facilitazioni, credo, di carattere così geopolitico che Trieste ha avuto. Io credo il fatto di essere una città ai confini dell'Italia, diciamo baricentrale rispetto a tutta un'area danubiana, questo abbia voluto dire molto. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il cosiddetto protocollo aggiuntivo del patto Molotov-Ribbentrop sulla spartizione dell'Europa orientale, esempio di memoria nascosta della storia, è al centro di un intervento che Antonella Salomoni dell'Università di Bologna terrà a Pordenone per l'associazione Aladura, in programma nell'auditorium del Vendramini stasera alle 20:30 per tutti e domattina al Grigoletti per i ragazzi delle scuole. Pagine architettoniche, il fondo Pietro Nobile, storia e conservazione, questo è il titolo della conferenza di Rossella Fabiani, storica dell'arte, sotto la lente la raccolta di oltre 8.000 fogli di disegni collezionati dall'architetto attivo nell'Ottocento a Gorizia, a Palazzo Coronini-Cromberg alle 18. Propone un minuzioso resoconto dell'assassinio del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy nel 1963, il documentario Four Days in November, realizzato da Mel Stewart nel 1964 e candidato al premio Oscar nello stesso anno. Finora inedita in Italia, la pellicola è stata digitalizzata e sottotitolata dalla Cineteca del Friuli. Sullo schermo il supporto alla tesi che l'omicida fu Lee Harvey Oswald e che agì da solo, senza altri aiuti. La proiezione sarà presentata dallo storico del cinema Sergio Grmec Germani, appuntamento a Gemona al Cinema Sociale alle 20:30. Ancora cinema, al Trieste Film Festival si prosegue con l'anteprima internazionale del film ungherese L'Uomo Cactus al Politeama Rossetti alle 14, l'avvio del concorso documentari con la proiezione de Il Sole Silenzioso della Russia dedicato alla contestazione giovanile al Cinema Ambasciatori sempre alle 14. Altro film in concorso, rumeno Tra le rivoluzioni, vincitore del premio della Federazione Internazionale Stampa Cinematografica all'ultima Berlinale all'Ambasciatori alle 22. Debutterà anche il premio Corso Salani con Lala, coproduzione sul tema dell'accoglienza all'Ambasciatori alle 16, mentre il concorso lungometraggi si aprirà alle 16 al Politeama Rossetti con il croato Hotel Pula in anteprima italiana. A teatro arriva al Verdi di Gorizia uno degli spettacoli più attesi della stagione, Oliva Denaro con Ambrangiolini, che da domani a domenica sarà al Bobbio di Trieste per la stagione della Contrada. Tratto dal romanzo di Violo Ardone, Oliva Denaro racconta la vicenda della ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore. 50 anni di storia italiana raccontati anche attraverso la musica con un gruppo che suona dal vivo. Questo è Boomers con Marco Paolini che arriva al Teatro Nuovo di Udine. Sul palco con l'amatissimo attore c'è un ensemble di musicisti guidato dalla voce di Patrizia Laquidara. Passiamo allo sport con il basket. In Serie A2 Trieste cerca di risollevarsi dopo le due sconfitte consecutive. Stasera il Pararubini arriva Chiusi, ultima in classifica. I biancorossi scenderanno in campo senza Reyes e probabilmente senza Ruzier, che deve recuperare completamente dopo una distorsione alla caviglia. In regia atteso dunque Bossi. Per il coach di Trieste, Cristian, Lumana è una squadra solida in difesa, all'altezza di qualsiasi altra formazione del campionato. Da parte nostra, dice l'allenatore, dobbiamo tornare al nostro stile di basket con il nostro livello di intensità e il nostro livello di concentrazione, grintosa in difesa e generosa in attacco. Si gioca alle 20. E per il calcio, Atalanta-Udinese si giocherà sabato alle 15 e sarà diretta dall'arbitro Piccinini di Forlì. Come noto, la società friulana sta valutando di presentare ricorso contro la decisione del giudice sportivo dopo gli insulti razzisti al portiere del Milan Maignan, una giornata a porte chiuse, e questa decisione riguarderà la partita successiva, la prima in casa appunto contro il Monza il 3 di febbraio. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Walter Vidonis. Sono le 12:54 minuti e 30 secondi, prossima edizione alle 15. Grazie per l'ascolto e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.